Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È Eclettica con lo splendore della sua nuova sigla. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, che ringrazia prima di tutto Ariel, perché è lui l'autore di questa sigla e dei nuovi jingle che sentite in trasmissione. Quindi grazie, grazie ad Ariel. Giulio Caperdoni tutti i giorni in vostra compagnia fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting. Tutti i dettagli li trovate o su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Vi ricordo anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo da utilizzare per iscriversi alla lista nera di Eclettica. E se siete iscritti alla lista nera, di settimana in settimana ricevete un mio mail con il dettaglio di canzoni, film e libri che costituiscono la trasmissione. Mia cara, credo che il diametro di quest'isola non superi i 50 km al massimo. C'è una strada costiera che la gira tutta in tondo, stretta, spesso a picco sul mare. Altrimenti, pianeggiando in coste brulle che scendono a solitarie spiaggette di ghiaia orlate di tamerici bruciate dal salino, e in alcune a volte mi fermo. Da una di queste ti parlo a bassa voce, perché il meriggio e il mare e questa luce bianca ti hanno fatto chiudere le palpebre, stesa qui accanto a me. Vedo il tuo seno che si solleva al ritmo pausato della respirazione di chi sta dormendo e non voglio svegliarti. Come piacerebbe questo luogo a certi poeti che conosciamo, perché è così scabro, essenziale, fatto di pietre, montagnole brulle, spini, capre. Mi è perfino venuto da pensare che quest'isola non esista e di averla trovata solo perché la stavo immaginando. Questo era l'incipit di Si sta facendo sempre più tardi, di Antonio Tabucchi. Blame. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Our soldiers of the king are blind and walking through their dust. They are cutting down the ones who moan, but cannot tell what is just. Yeah. L'avevo detto ieri che in questa nuova stagione di Eclettica difficilmente avremmo riascoltato brani già sentiti nella stagione scorsa, la 13ª, e fino ad ora sto riuscendo a mantenere quell'impegno. D'altronde siamo solo al secondo giorno, avrei anche voluto vedere. Per esempio, ci siamo ascoltati in apertura di questa trasmissione Elegies to Lessons Learned, quello che è il nuovo album degli I Like Trains, però con un brano diverso rispetto a quelli già ascoltati. Infatti era 25 Sins, il pezzo ascoltato qualche minuto fa. Gli ultimi minuti invece li abbiamo passati assieme ad una nuova formazione statunitense. Loro usciranno, e scusatemi per la pronuncia francese, nel 2008 con il disco di debutto per l'etichetta La Société Expéditionnaire. Penso di essermela cavata. Moon and Moon è il nome del progetto, che è un progetto che potremmo chiamare avant rock. Comunque c'è anche molto teatro nella loro musica. Sono guidati dall'artista di nome Will Lemon, e all'interno della formazione c'è, per esempio, ma solo per le parti su disco immagino, anche Olivia Galarza, di 7 anni, di cui avete sentito la voce. Act 2, Hands of a Man, è il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati in Eclettica. Eclettica che ora prosegue con The National, Apartment Story. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata. e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie e lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, e un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo, a Pereira, è impossibile dirlo. Questo era l'incipit di Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi. We'll be right back. chiusura tutta europea, quella della prima parte di Eclettica di quest'oggi. Giulio Caperdoni sta per lasciarvi, breve pausa e poi si riprende per altri 30 minuti, e così tutti i giorni sulle frequenze di Rock FM. Per esempio, ci siamo appena ascoltati i norvegesi, e qui prendo un respiro, Ungdomsskulen, che da Cry Baby, appena uscito, ci hanno fatto ascoltare il pezzo Ordinary Son. Per passare invece ad un nuovo nome che proviene dal sud-est inglese, un quintetto dal nome Young Sensation, veramente speciale dal mio punto di vista, una di quelle canzoni che mi sono entrate in testa e faticano ad andarsene, che ci ascoltiamo con, appunto, proprio questa canzone, dal titolo Happiness. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?